Savonarola, il frate che fece audizione a Firenze, stagione 2, un programma prodotto da e per Radio Big World. In realtà sono prose scelte scritte da Pasquale Villari, che era membro di un'umanità che vantava quattro conquiste fondamentali, e cioè il fuoco, che da primati ci fece umani, il linguaggio, che da vivere in branchi ci fece organizzare in tribù, l'agricoltura, che trasformò le tribù nomadi in stati stanziali, e l'uso dei combustibili fossili, che da antichi ci fece moderni, e lette da me, che sono membro di un'umanità che vanta altre due ulteriori conquiste, cioè l'elettromagnetismo, che da analogici ci ha reso digitali, e l'informatica, che da digitali ci sta trasformando in cyborg. Nel frattempo il fuoco divora case e città, il linguaggio si è appiattito, l'agricoltura intensiva devasta il pianeta e i combustibili fossili ci stanno portando sulla soglia della catastrofe. Ma a noi che ce ne frega, tanto stiamo a guardare porno al computer o a spippolare sul telefonino. D'altra parte, il Te Deum storpiato nel Latinorum dei campagnoli dei tempi di Villari, tradotto letteralmente, recitava: tre martiri in un canneto formano un esercito, che poi ha un suo senso. Invece il proverbio è certo che due donne e un'oca fanno un mercato. Serio, capitolo 5, volume 2, Ingiusta giustizia. L'indomani del tumulto era lunedì santo, cominciavano quei giorni sacri alla religione nei quali il popolo si stringeva assai più numeroso intorno al Savonarola, le cui prediche solevano essere allora più fervide ed eloquenti, e adesso invece egli era chiuso in carcere in potere dei suoi nemici. Si vedeva nel palazzo della signoria un'attività incredibile, un andare e venire di mazzieri e di fanti che, in nome dei magistrati, richiedevano tutti coloro che più erano conosciuti come partigiani del frate e del governo popolare. Alcuni, malgrado la espressa proibizione, riuscirono ad evadere dalla città, altri invece si presentavano. In questo modo, oltre al Savonarola e i suoi due compagni, fra Domenico e fra Salvestro, venivano imprigionati 17 tra laici e frati che s'erano trovati alla difesa del convento o erano noti come più intimi del Savonarola. San Marco, dopo essere stato saccheggiato, fu minutissimamente ricercato, rovistato in ogni angolo e massime nella cella del Savonarola per vedere se vi erano carte che potessero servire a compilare quel processo che si voleva ordire a sua perdizione. I frati intanto s'erano ritirati nell'ospizio, quivi, dopo aver assistito i loro moribondi e feriti insieme con quelli dei nemici, costruito un altare, attendevano a pregare. Ed in questo mezzo i compagnacci, avendo raccolte tutte le armi trovate nel convento o nella chiesa, le ponevano sopra un carro, le portavano in giro per tutta la città e, così insanguinate come erano, le mostravano al popolo gridando: «Eccole le virtù di San Marco, eccoli i miracoli del frate e l'amore che egli portava al popolo di Firenze!» Queste cose non erano senza grande effetto sull'animo di una moltitudine la quale teneva siccome ingannata e delusa per non aver visto alcun miracolo nel giorno dell'esperimento del fuoco né in quello dell'assalto al convento. E la signoria, battendo il ferro mentre era caldo, non tralasciava alcuno dei mezzi che potevano condurla al suo fine. Quel giorno medesimo raccoglieva una pratica per interrogare sul modo da tenere in queste esamine, e il suo linguaggio dimostrava chiarissimamente che s'era presa una ferma risoluzione di violare non solo la fede già data di restituire illeso il Savonarola, ma di violare ancora le consuetudini e le leggi stesse della Repubblica. Cominciavano col domandare: «Sei tre frati che per l'onore della Repubblica si è cercato d'avere nelle mani, bisogna esaminarli qui in Firenze o bisogna renderli al pontefice che li richiede?» Procedevano quindi a fare un quadro lietissimo delle molte promesse che s'erano avute e delle molte speranze che sorridevano alla Repubblica per questo imprigionamento. Si concludeva finalmente col domandare: «Quello fosse un affare circa l'ufficio dei presenti 10 di libertà e 8 di guardia». A questi magistrati apparteneva per legge il giudicare le cause di Stato e quindi volevano i signori esserne sicuri col far la nuova elezione prima del tempo legale, giacché allora solamente potevano procedere con pieno arbitrio. Noi non conosciamo con precisione ciò che si rispose nella pratica, tutti i discorsi andarono in gran parte smarriti fuori quello del Vespucci, che ci fu tramandato quasi per intero. Nel 94 vedemmo il Vespucci opporsi al Partito Popolare per favorire il governo dei dei pochi. Nel 95 lo trovammo propugnatore della legge troppo democratica delle sei fave. Più tardi fu avvocato di quei cinque cittadini che avevano cospirato in favore dei medici, e ora egli è dei primi a rivolgersi contro al Savonarola. Levatosi a parlare per la pancata dei dottori in legge, consigliava che Fra Ieronimo venga esaminato da persone prudenti e, fatto il processo, non si abbia a pubblicare intero, ma solo quella parte che parrà alle eccelse signorie loro. Che non si mandi a Roma, ma si scriva che sarà tenuto a buona guardia. Circa l'ufficio dei dieci, alcuni pensano di eleggere i nuovi, altri consigliano che i nuovi restino in ufficio coi vecchi sino al termine legale. Quanto agli otto, si osserva che il termine loro è già presso a scadere. Quasi tutti si accordavano a questo, se non che fu da qualcuno aggiunto ancora che quando la elezione non riuscisse a grado della signoria, si dava facoltà di farne un'altra. In sostanza si concedeva arbitrio di fare e disfare. Il partito dei piagnoni era come annullato, gli arrabbiati erano padroni della città e la signoria poteva francamente osare ogni cosa. Essa infatti creò i 10 e gli 8 nuovi facendoli stare in ufficio insieme coi vecchi. Il dì 11 aprile componeva una commissione straordinaria di 17 esaminatori, con l'incarico espresso di formare il processo dei tre frati valendosi della tortura ed ogni mezzo che credessero necessario al loro intento. Con quale giustizia poi e con quanta imparzialità dovevano essere formati quei processi veniva dichiarato abbastanza dai nomi di coloro che facevano parte della commissione. V'era quello stesso Piero degli Alberti che, il giorno dell'esperimento del fuoco, vedemmo adoperarsi con tanta audace e sfacciata pertinacia contro al Savonarola. V'era quel Doffo Spini, capo dei compagnacci, autore principale di tutte le insidie tramate contro di lui, promotore e capo nel tumulto dell'ascensione, nell'esperimento del fuoco, nell'assalto al convento, colui che per mezzo dei suoi sicari mille volte aveva attentato alla vita del misero frate e con le proprie mani aveva cercato di finirlo per le vie di Firenze, in chiesa e sul Pergamo stesso. Colui si trovava ora fra gli otto nuovi e nella commissione, doveva cioè essere dei primi nel compilare il processo e pronunziare la sentenza finale. Il suo aspetto riusciva assai familiare al Savonarola, più volte lo aveva visto con occhi ebbri di feroce vendetta, con la mano sull'elsa del pugnale già quasi sguainato, cercare di aprirsi la via fra quel cerchio incrollabile d'amici devoti che eroicamente ponevano la vita in difesa del loro maestro. Ed ora lo vedeva col lucco indosso trasformato in giudice, onde poté ben presto comprendere con quale umanità sarebbe proceduta l'esamina, con quale onestà condotto il giudizio. Sin dal principio fu così manifesta la violazione della giustizia e delle leggi che uno degli esaminatori, dopo aver accettato l'ufficio, lo ricusò sdegnosamente dicendo che non si voleva trovare a questo omicidio. La commissione non fu compiutamente ordinata che il giorno 11 aprile e i due canonici fiorentini che vi presero parte per ordine del Papa non poterono ricevere mandato da Roma prima del giorno 14. Non di meno abbiamo già visto che il Savonarola venne interrogato la notte stessa del D8 in cui fu preso e il processo si cominciò l'indomani, prima cioè che gli esaminatori fossero tutti nominati. Interrogato quel giorno confermò sempre la sua dottrina e a coloro che chiedevano altre risposte ripeteva «Voi tentate il Signore!». Gli fu dato da scrivere, ma le sue prime parole furono tali che bisognò subito distruggere quei fogli e smettere ogni idea d'avere un processo di mano propria dell'accusato secondo che le leggi avrebbero voluto. Queste poche carte, che così andarono irrimessibilmente perdute, potrebbero dirsi la sola confessione genuina del Savonarola, giacché, come noi vedremo, in tutta l'esamina non gli fu più concesso di scrivere di proprio pugno.